infiniti quando sei qui vicino a me. Questo soffitto viola no, non esiste più. Io vedo il cielo sopra noi che restiamo qui, abbandonati come se non si fosse più. Niente più niente al mondo suona un'armonica, mi sembra un organo che vivrà per te e per me. E sull'immensità del cielo per te e per me, nel cielo. Quanto mi piaceva stare in questa stanza col soffitto viola insieme a te, che mi tenevi tra le braccia strette e quasi non riuscivo a respirare. Il respiro del tuo profumo che sa di mare, agli alberi infiniti guardavano noi fritti, che sarà anche un po' banale, ma che non si fa morire, ma si tiene uniti nel tempo, e col tempo suona un'armonica, mi sembra un organo che vibra per te e per me, sul nell'immensità del cielo. Braccia stretta e quasi non...